Cambia di umore come il meteo, senza avviso. Ed oggi piange pure il paradiso. Chissà adesso come stai. Prima non pioveva mai. Leggevi libri sull'astrologia, anche se al domani non credevi più. Non eri brava a mantenere una bugia, ma se ci penso il mio futuro me l'hai scritto tu. Io e te eravamo una cosa sola, ci perdevamo col pensiero su una nuvola. Ora che siamo i titoli di coda, non è strano, piova anche dentro un cinema. Cambiavi umore come il meteo, senza avviso. Ed oggi piange pure il paradiso. Chissà adesso come stai. Prima non pioveva mai. Ieri ero ad una festa senza invito, solo per sentirmi meno solo. Ma da quando non ci sei, metto sempre il tuo keyway. Dentro pure è tutto instabile. Non chiedere se voglio restare, ho perso le coordinate. Chiedilo alla luna che resta da sola, se la solitudine le fa paura, se l'amore esiste solo congettura. Guardami negli occhi e non aver paura di me. Dopo che mi hai insegnato ad amare, ogni errore fatto io lo vorrei rifare. Forse a sbagliare adesso sei campione mondiale. Cambiavi e sei cambiata come a Hogwarts le scale. Ma quanto fa male dover ricominciare. Io ti dicevo ti amo, tu dicevi di andare. Ed ora non mi basta più la luce dell'aurora. Cambiavi umore come il meteo, senza avviso. Ed oggi piange pure il paradiso. Chissà adesso come stai. Prima non pioveva mai. Ieri ero ad una festa senza invito, solo per sentirmi meno solo. Ma da quando non ci sei, metto sempre il tuo keyway. Giuro che troverò un modo per farmi bastare il cielo prima di incontrare te. Neanche io mi conoscevo. Ancora un'altra volta ti terrò, già lo so, negli abissi dei ricordi che avevo. Se avrò nostalgia di te, proverò a tornare indietro. Cambiavi umore come il meteo, senza avviso. Ed oggi piange pure il paradiso. Chissà adesso come stai. Ieri ero ad una festa senza invito, solo per sentirmi solo. Ma da quando non ci sei, metto sempre il tuo keyway.